antenna che si scioglie. È un capo che si scioglie, anche se pongo un capo grosso fino a 1000 penso che ce la faccia a resistere, perché la casa dice che fino a 1 chilo fa se ce la fa. Dovrebbe resistere perlomeno. Non la conosco quella antenna, non la conosco, capito? Questo l'ingresso c'ha 100 watt, quindi io ho provato a minimo con 40 watt da intorno ai 400-450, con una settantina di watt siamo intorno a 650-700, quindi con roba 100 watt non gli puoi dare l'ingresso a un amplificatore, ma dandogliene 80, come avevo fatto l'altra volta, che ho provato, ti ricordi che ho provato l'altra volta? No, non c'eri tu, non mi ricordo se c'eri, se c'era Roberto Quarato non riuscivo manco a attenuarmi. E l'altro giorno l'ho provato con 80 watt e ne aveva intorno agli 850. Mazza che ne ne faria. Quella è una bella bestiolina. L'altra volta avevo provato quelle M-Italy. No, cioè, in tutti i canali ti sentivo. Vabbè, ma lì c'era un baracchino. Un baracchino turbo che avevo provato quello. Poi quello lì non era il mio, quel RM Italy lì non era il mio. A parte che non è un RM Italy. È un'altra marca quello lì, è come l'RM Italy, ma non è RM Italy. Già funziona bene anche quello. Però è dalla metà dei fatti di questo. Questo è ancora valvolare, poi c'ha due tubi, non so se si chiama Z811 come valvola. Due ne ha. Quanto è il fondo di un bicchiere da cucina di quelli grandi, capite? Ne ha due. Però cucciamo un bel ingorrente, quindi lasciatelo stare. Vabbè, se dovesse servire, è qua. L'attacco devo collegare solo l'antenna e il cavo, basta. Lo so dove va bene quello, in campagna. Perché magari ti prende un gruppo elettrogeno, magari un gruppo elettrogeno grande non consumi niente, ma la corrente normale, tu vai un paio di passaggi e a minimo ti arriva un botto d'arrivi. Ammazza che ne varia, lo giuro. E anche l'altro così, anche infatti i miei valvolari li odio, però ce li ho. Uno, guarda, addirittura l'avevo venduto. Uno l'avevo venduto ad una persona che ci aveva portato via un po' di roba, che non è di Sassari. E da poco me l'ha restituito, fatti il conto. Lui ha trovato i stessi soldi, me lo sono ripreso, però è dentro l'armadio. Perché non lo usa, e quindi mi ha chiesto se lo rivolevo, e trovo e la riporta, non lo tengo, se lo voglio anche tutto. I soldi non ne vengono. Questo invece l'ho preso da poco. Questo l'ho preso da poco da un radioamatore che ha dismesso, ce l'aveva. E me lo sono preso perché della linea che ho avuto, capito? Ha la stessa altezza del 940, un po' più alto del 440, del 140, però è di linea. Mentre quello invece è la linea IAESU, capito? Vabbè, non siete dei grandi soldi lineari, non me l'ha tenuto a me il lineare. Avanti già. Ehi, ehi, a me invece mi ha fatto. Ah, lascia perdere già. Se ti rovini tutto il quartiere, lascia perdere. C'hai troppe antenne vicino, c'hai io. Li usavo perché sono in alto, non c'ho niente che posso disturbare. Lì c'è troppe antenne basse, troppe palazzine basse, puoi fare danno con quella potenza. Sì, chiaro so, solo problemi ti danno i lineari, no, stavo scherzando, i lineari ti danno solo problemi, quando sono più di 100 watt rompono le scatole, cominciano a bussarti la porta, che disturbi, che qua, che là, e non vivi più. Tutta questa grande necessità, però è lì perché dentro l'armadio la verità non ci sta, perché c'è già l'altro, infatti sto cercando di fare posto, ma è un grande problema, c'è troppa roba, devo prendermi delle cassette di quelle in plastica, mettere un po' di roba, cavi, cavetti, prolunghette, cazzo, nel polvere, nel calore, microfoni, bombolette, sfrai, e portare tutto sui mansardi. dicendo già, ti turba. Cazzo di 40 anni vicino, cazzo di 10 fumo, lei c'è la televisione. Non fate mai che te fa di adesso in bacio se potente. Ma stai scherzando? È pericoloso. Pericoloso, non disturba più che altro, non è che sia pericoloso, ma piacerebbe averli anche per cosa? Non lo so, per fare stazione, non per usare. Piacerebbe avere un bel linearone grosso, di quelli valvolari, grossi, con tanti strumenti, bello. Se vedrai, ti rompete, fa la tentazione di attaccarlo sempre. Fidati. Magari secondo come ti dirani, cazzo figli l'attacca. È sempre così che va a finire. Alla fin fine, se ce l'hai lo usi, se no se lo compri per non usarlo non va bene, dai. Anche tu sei tentato, tu lasciami lì. Certo. No, ma infatti se io ce l'ho lo uso, se no non mi tratto. Cosa usa a fare? Magari un buono e grosso, il kiwi, io ti ricaggio attaccati. Vengo in greffa a picchiarti, venga. Lo sai che io anche con questa qua, vabbè, non ci avrà molta potenza, non faccio una riga al televisore. Ho provato, niente. E mia, l'antenna non è a 6 bocce, a me è mia, l'antenna del televisore che ho io. Eppure non fa una riga, guarda, sta guardando Sara. Si sente? Allora, nel televisore righe non ne fa più, perché con la nuova frequenza che c'è, righe non ne fa. Ti scrive assenza di segnale, oppure te lo fa buio direttamente, però righe non ne fa. Cappa. Sa che invece con la Storm e anche con l'altra che avevo comprato, poi quando l'avevo messa più in alto non lo faceva più. Con la Boomera adesso ce lo faceva. Chiudava la televisione. Avanti a chi tocca, dai. Claudio, non ti drumi. Sto facendo roba, magari. Roba. E mi ho preso il gabbellone, scusa. Preso il gabbellone a mettere su un po' di carri e carretti anche nei cassetti qua. Quindi adesso lo faccio domani, ma di più ma la cyber di giù, facciamo tutta la posizione della roba. Cassetti già, sono due cassettiere, una piccola e una grande, e poi c'è l'armadio che è tutto pieno di roba, l'armadio proprio dove c'è roba delle radio, capito? E quindi per ammazzare il tempo me la stavo mettendo a posto. Ma sono dalle 4, 3 e mezza 4, infatti stavo ascoltando loro, stavano parlando e poi sono entrato. Vabbè. Io mi sono addormentato un po', però mi sono uscito da due gruppi da ribiri, perché non mi sono messo coperta, ho dormito così con la tuta sotto, e mi sono svegliato col freddo ai piedi. Io guardando la TV mi sono un po' addormentato, poi mi sono svegliato e mi sono entrato qua. Sì. Adesso ci sta un bel bicchierino, ma non di birra, di qualche cosa di forte, tipo mirto, una cosa così. Alessio, ci sì. Ci sarebbe. Già è buono, già. Ma anche la birra, già non è male. Oh, la birra col caldo io la bevo, quando c'è freddo no. Io bevo anche il vino. Ma io mi alterno un po' là. Perché ci usciamo molto sempre? No, oggi non ha vinto nulla. No. A ciucciare, oddio. No, si beve una birra non è ciucciare, no. A ciucciare ciucciavo quando in scia. quando era ABC locale che mi durava 4 anni. Chi se ciucciava, ma no, se ti bevi una birra ragazzo, non è niente. No, ma infatti, con una ogni tanto sì, ma se sei ogni giorno bevendo birra, bevendo birra, bevendo birra, la fia di venire a cerruso. Cosa? No, quelli no, assolutamente. Sì, che c'è gente che sta sempre con la pulla in mano, dalle 9 di mattina, quando io lavoravo al produttore, c'era gente già con la bottiglia in mano bevendo birra calda, la calda ce la beveva con i pendecchi. E si sono drogate. E allora, si compravano la birra, e poi uno una volta è venuto, faceva il giubbotto, arriva la caccia e mette una pulla di birra e chi viene la caccia. E allora ce l'aveva nascosta sotto al giubbotto, figlia, buh, in terra. Ah, ma la paghi due voci, se ti sto chiamando i carabinieri. No, ma io l'ho solo, perché non ce la facevo a tenerla, l'ho solo messa lì, e beh, perché ho messo solo quella sulla cassa allora. Ah, ma la paghi due voci, l'ho giocato a pagare due voci. Ma lì gli è dispiaciuto tanto, mamma mia. Dio ha fatto, mamma mia, le facciate una pulla di birra, ma cos'era, non di chi si, così era? Tossico. Cosa? Tossico. Non di chi si, dosicine. Lì gli è dispiaciuto che l'ha dovuta ripagare, e più le è dispiaciuto che ha perso la birra, mamma mia, mi era incazzato, era incazzato voce. E non sai cosa facevano? All'ora di pranzo, che facevamo orario continuato, infatti adesso apriamo alle 5 in via Mare, che facevano il continuato, c'erano solo due commessi, una alla cassa e una in salumeria. Beh, ne approfittavano, rubavano i cuori, di tutti di più. Chi sa fa vendicire? Ma tu non stai più lavorando, no? Io no. È vero, mi ricordo. Mi ricordo. Ammalia, quando faccio una pulla di birra, chi sei sacrosanta? Come deve accendere una preghiera, e poi curibbiate la birra, chi sei? Non è che ripiace, dopo del per sconvolgersi, perché magari non c'hanno roba e per sconvolgersi in qualche maniera bevono, capito? Sì. Uno o due se ne vendono. Sì, quando si sconvolgono. Loro devono stare sempre sconvolti, se no non stanno bene. Oh, c'è gente di merda, carità, lasciamo perdere, va. E lì vicino a casa dove abitavi prima per denari un bel chili. Morirò che la piazzetta già venga caduto. Erano sempre bussati in kiwi, e lì si aggarrila mentre circolano gli anziani lì, si bussavano tutti in kiwi, in greffa. E dopo non intendevo niente. Che altro mai piedi, paro un culo, cane. Per carità. Sì, si fanno sempre per la droga. Io una volta sono andato a fare una consegna lì ai grattacieli della Latte Dolce. E questo qui il cazzo gli stava dicendo, aiuto, dammelo, appena, aiuto, che non l'ha giù nulla, non ti li posso dare. Io ti dice, non ti li posso dare. E aiuto, dammila, che mi dai, ti do un assaguamento, non ti preoccupare, tu cazzo sconvolto. Non ti li posso dare, senza di là non ti li do. Gli acqua qui che aveva data, ma se non è quella rega. Aveva ragione, dopo fate il casino, sempre a far rabbia. Chi è che voleva entrare? Avanti! E dammi la caccia di mia, ma dove vai, gatta? Ami com'è? Ah, tu diamo un viaggio, mi gatto, un viaggio, gatto. Ma che mi dammi la braida? Cazzo diavolo, Mi capisci? No, chi c'è per i capelli? Appunto, visto, lo faccio uguale, lo faccio. Attacco. Dalle unghie, cosa già? un bel abbattato che la vendendi, bravi. Sì, a cosa la vendendi? A carbone la vendendi, non ti diciamo. Ma e sui canta, Alberto. E Alberto Carbone, non mi convinto. Buccia abbattato. Non hai mai visto tu il video che ha fatto con me? No. E detta c'è la ciabuga. Noia. Ma dice che era ciabato, mi pare che è come te prima ancora. Tranquillo. No, sto lavorando comunque, dove è? Dov'è? E tranquillo, meno quello. Lavorando sta... Ah, vabbè, vede sempre queste cose qua, no? Se non lavorare, vado a vedere quelle cose, visto è che se lo devo fare più che altro, capito? No, sto lavorando, grazie a Dio, è tranquillo. Non le posso dire niente. Il computer come la prima, ha migliorato veramente al 100%. Cabaga, poi è presso c'è il motorino, tutto là. Cioè, tranquillo, io tranquillo. Sì, te lo raccomandendo, dimmi. Oh, già. Ehi, Claudio. Ehi, a qua c'è un sto facendo. Ma Roberto Bellicati, no, l'ho visto anche da poco, già. Già sta bene. Ma è sempre strano, dai. Non è come persona normale. Ehi, me lo dici prima, più ordinato, più pulito. Non stai in giro chiedendo soldi. Prima aveva la bicicletta, io avevo qualche cosa, devo fare un pieno. Ehi, prova a pulire. Ma la bicicletta lo dovevi avvare, te ne immagini? Ah, oh, c'è una moto, c'è. C'è lo scooter, grazie a Dio. Il problema è che l'unica cosa che riguarda è cioè, portare la birra 18 attivo all'amico suo, capito? Il discorso è quello, e Claudio già lo sa che sto parlando io. Lo sbaglio è quello, capito? Lui si fa in quattro, per gli amici il discorso è quello lì, e capito? Lui vabbè, si beve la birra, quello che è, addirittura si mangia la pizza, anzi, adesso la pizza non se la sta mangiando più, la verità. Però c'era un tipo che frequentava lì al circolo, che si mangiava la pizza grande in cielo, che aveva whisky, Claudio stava lì. Sto già di che sta parlando, quindi a un certo punto. E poi una volta mangiato la pizza, lo vuole accompagnare a casa in moto, capito? Non vai. Il discorso è quello, è braccio, è una persona brava, Roberto. Non possiamo dire niente, la verità. Però lavora, se ne fa veramente il culo, guarda, lavorando. Quanto dire posso dire? Perché è una cosa giusta. Non mi sto sbagliando. Servita che l'ha giù fatto. No, no, la verità, no, già ha sempre lavorato, poverino, no. No, non le si può dire niente. Guarda, lui quando finisce il lavoro per dire vabbè, si beve la birra, comunque al limite se gli fa male, boh, sa che una settimana, due settimane, che non si fa vivo, il discorso è quello. Poi c'era un tipo che frequentava lì, già lo sa, Claudio, quindi figurati tu. Si beveva whisky, cose del genere, si prendeva la pizza di cielo e poi voleva essere accompagnato a un certo punto. Non saranno, a un certo punto, quello che ha trovato gente, vabbè, lui è veramente molto bravo, la verità. Sai quante volte mi ha accompagnato a me a casa? Ma poi guarda, non ti preoccupare, guarda, ci beveva una birra assieme, mi accompagnava a casa, è morto. Figurati tu, mai sono caduto con lui, perché non è mai stato svolto, la verità. È stato veramente in gamba, quello te lo posso assicurare. No, no, la verità, no, già di buon cuore, se da voi gli domando un piacere di essere fatti, non so di chi è tranquillo, no, la verità, ti dico. Lui si è fatto 7 in 4, guarda, la verità. Purtroppo è che ha conosciuto questo tipo qui, che fa il meccanico lì in via Napoli, cose del genere, e quindi a un certo punto quello si spruzza, hai capito? altre si pensava più che altro, quindi a volte là c'è il padre lì in officina, lui si rimane a casa e si ubriaca con 18 mattine al giorno, il discorso è quello, tutto lì, hai capito? In via Tempio. Cazzo di senti, ah, in via... tu di chi stai parlando? Lì in via Bentivoglio o in via Livorno? Che officina stai parlando tu? Via, già lo so che tu da Livorno, c'è bisogno che lo dico io. Ah, un video di Vidal. Esatto, sei bravo. Ma che matto questo? Cazzo, il padre è una bravissima persona, eh. Il padre sì, ma lui, il figlio... quello che comunque sia, sai che lui abita lì in Corea, ha suonato una porta e abita lì dentro, quindi si fa fanculo, lì è andata a fanculo, cazzo, è possibile, si fa portare la roba a casa sua, qui in Corea, capito? Ma la macchina. Già un buono sciuveggia. Ma dici che non era più pendi di Maru, t'ho raggiunto te. Eh beh, te lo sto dicendo io. Ma è così. Tutto per così, mi ha soltanto funzionando lineare. Cazzo. Boh. Il rovesto è un po' tempo fuori. La Giovanna mi sta rompendo le palle adesso, mi dico qui, donna, partito. Non è possibile, cazzo. Che te la fai? No. Tu? Apro l'opera, l'hai pigliato. Avanti già! Un attimo che sto rispondendo al telefono. Aspetta, però non mi guarda. 1, 3, 4, 5, 6, pronto. Cazzo, quando la cosa non usa più, guarda un casino, cazzo. Porca puttana, cazzo. Ora. Questa storia di scendere si è arrivata a zero. Nell'Iano non mi piace proprio per niente. Il antelazzino, all'umido, vabbè, ma... che mi gioca le palle così mi sa proprio di fanculo cazzo. Ora adesso va bene, sì, c'è una trombetta, guarda che non sia che non sia qualche spezzone Antonello. No, non penso sia spezzone, la verità è che è stato la lineare parecchio tempo fermo fuori, capito? In terrazzino, quindi stiamo i numeri, adesso sto facendo scaldare, speriamo bene. Tu metti l'amplificatore fuori in terrazzino, ma stai scherzando. Sai che queste cose a valvole sono così, quindi a un certo punto basta niente, quindi vabbè, adesso sta funzionando comunque. In questo momento l'ho abbassato. C'è proprio con la trombetta, il classico ritorno di RF che non va bene, il ritorno di RF con la trombetta lì. Aspetta un attimo. No, c'è il coso, aspetta, lo dico subito. Eccolo qua. Sotto c'è l'alimentatore, è quello switching per il VU. Avanti chi è? Invece per lui, vedi che non è cosa vuoi dire? Fiori brucenti, avanti, chi è che deve entrare? Avanti. E a volte capita, io non lo sai, voglio fare la prova. scappellato. Hai capito bello bene? Chi era? Con chi ce l'avevate? Non lo so, io non ce l'avevo con nessuno, aspetta. Quella è... Antonio, ho sentito uno fischiare. Oh, vabbè, l'hai sentito pure tu fischiare. No, vado a far entrare, non entra pazienza. Vediamo un po'. Beh, se devo entrare se la biglia in culo a un certo punto, se devo entrare entri, e sai che ti ma limosina. Vado a mangiarmi il secondo, ciao a tutti, ciao. Sono bonario, sono bonario, sono bonario, c'è un coso al contrario, è pisello, me lo vedo, il giro per gli altri, ma... Doveva gribba. Che sta splatterando. Non so, io non esito splatter. Oddio. Oggi una serata così, mamma mia. Sono giocato, è ben nuda. Tutto mi sento abbacchiato. Fallo entrare tu. Avanti. Sabezzalo, che tu, chi sei? Fate la bingo. Fate la bingo. Avevi frusciato una fragosa. Sono bonario, sono quello che fisca il contrario. E ce l'ho dietro, vedi qui quanto è. E non sa che convento. Non c'è per me. Sono Pomponio. Sono anche scritto in manicomio, qui non c'è problema, quando ti avvia, che casino che state facendo. Sono Pomponio e abitavo vicino al manicomio. E ora che lo dicevi, intanto siamo 25 centi, quindi non c'è problema, ci andiamo tutti quanti da rea. Oggi è giornata sclerata, Gianni. Brava, corridimo. Cosa vuoi dirci? Oggi si sono fumati qualche cannone tutti. Che a lei c'è sempre anche da tutti. Sicuro. Io con i vapori. Quanto mai, non piacerà a noi. Al comero, facciamo il suo, sta tranquillo. Cosa sei, tranquillo? Con me la trocerà nessuno tranquillo, detto. Va bene. Siamo tutti tranquilli, stiamo solo abbuffonando. Ma sono sceso dalla scala, perché cazzo mi fa male anche già la schiena, c'è la biglia in Cuba, ma di aver inventato buffo. Sì, manco male, posa di e fa vita, io. Stavo cavendo anche dalla sedia, da questa poltroncina, mi ha tolto i braccioli, perché mi ingombravano. Cazzo, guarda, la pugia al braccio, mi sono dimenticato, non c'era il braccio, la gemma che ha già battuto. Io l'altro giorno ho preso l'equilibrio, lo stesso, salendo sopra l'armadio. Mi è mancato l'equilibrio, non so come, ho messo il piede in fallo, giù me non mi ammazzo, sono guvato in terra, ma ce l'ho fatta a tenermi in equilibrio, se no cadevo in terra. Ehi, non ti fare certe cose, ma purtroppo. Vai Marco, vai, riprendi, che ho mangiato poi. No, nel mentre sto mangiando, dai. Quindi ascolto, riprendete voi. Sono bonario. Basta con questi potenziometri, che disturbate. Basta con i potenziometri. Già lo sai che tu c'hai il potenziometro e non puoi parlare. E allora, non lo posso usare, il potenziometro. Su diavolo. Cazzo, qualche asino doveva essere quello che potenziometro. E quella è una cosa sentita e acquisita, no? Quindi ha fatto la, no? L'equivalenza, come si dice, l'equazione, potenziometro uguale potenza. Invece non sa che può essere quello il volume, può essere il mic gain, il ref gain, fine, coarse, capito? Vabbè. Ok, dai. No, avrei voluto solo vedere la faccia se andava a dirlo alle scoposte. Chi usa voi? centimetri, gli avrebbero riso in faccia. Che favore, ma te le immagini, c'è il corcignolo, c'è il potenziometro. Che felicità. E più di uno, guarda, ne ho. Uno, due, volume, squelci, micchigene, refegene, se vuole cal. Fine, coasse, gli altri sono selettori, non sono potenziometri. Vabbè, dai, non tutti sono, sanno, no? Riprendete, fatemi mangiare in pace. Mamma mia, tranquillo. Pesci, riprendi. Ma niente, sì. Chi io? No, Marco. A quest'ora. Pranzo a quest'ora, Marco. Da voi mangi a mezzanotte. È così, è abituato così, sempre così è stato. Sia lui che la mamma, tutti e due mangiano a quest'ora. Se non hanno fame prima, cosa fate? No, mangia a mezzanotte, c'era a mezzanotte. Ui, almeno non ha problemi di fare in fretta a cucinare a luna per mangiare a pranzo. Se la prende con calma, cucina che adora gara. Comunque è vero, cioè se noi abbiamo fame, che ne so, alle 3 di pomeriggio mangiamo alle 3 di pomeriggio, se abbiamo fame alle 6, alle 6, per la cena lo stesso, se abbiamo fame alle 11, alle 11, alla mezzanotte, se no anche a luna, intanto noi facciamo le ore piccole qua. Ma coincide il fatto di avere fame, cioè non è che uno c'ha fame e l'altro no, oppure coincide tutti e due e avete fame alla stessa ora? No, no, no, praticamente la regola qua è che non ci sono regole, chi ha fame mangia, chi non ha fame mangia quando ha fame, punto. Ah, non è che mangiate per forza insieme, cioè se uno ha fame mangia, così? Sì, sì, sì, se mamma, certe volte mamma a mezzanotte non ne ha proprio voglia, perché mangiamo tardi a pranzo. Al limite si accontenta di un budino, uno yogurt, una cosetta così dolce, un po' di frutta al limite, e boh. Ehi vabbè, poi lì mangiare troppo tardi non è che sia il massimo per una persona di una certa età, no. Il fatto di digerire, se mangi tardi non ce la fa digerire. No, perché poi, ti ho detto, noi stiamo svegli, guardiamo la TV fino a molto tardi, quindi è tutto commisurato comunque. In realtà è, per lui è la normalità, però riconosco che non è... Cioè, poi vedi, di mattina sono tutto zombie, cioè mi stravolge tutta la giornata questo di andare tardi, di pigliare sonno tardi, eccetera. Va bene, non ne parliamo, sempre, siamo sempre intorno a quel discorso, fate girare. KK, quante volte l'hai detto che facevi correttina? No, quello prima di cucinare, adesso però, così, sto degustando tra una cosa e l'altra, eccetera. Poi sono lento a mangiare, cioè non mangio con fretta. Me la prendo comoda, tanto dove andare, qua alle 10 ci pure il coprifuoco, non possiamo manco uscire a farci un giro con i soliti conoscenti, niente, tappati a casa, e bar poi non ne parliamo, chiudono alle 6, manco a pigliarci il caffè prima, niente, nulla. Ma io l'altro giorno sono andato al bar del quarto a prendere un caffè, detto, mi dispiace ma la caffetteria è chiusa, alle 6:05 già tutto pulito, tutto fatto. Eh beh sì, perché alle 6 in teoria dovrebbero proprio chiudere, perché se poi c'è un controllo e li trovano servendo dopo le 6, lì li fanno verbaloni. Per esempio in Viale Trento, l'altro giorno sono andato in farmacia, o dove ero andato, sì in farmacia, c'è un piccolo bar, alle 6:20 c'era ancora gente con la tazza in mano dentro, con le serrandine a scorrimento orizzontale, no, sarà cinesca, come vuoi chiamare, a metà però la gente ancora con la tazza in mano. Pace e bene a tutti, dai che finisco di mangiare, ciao Gianfra, ben entrato. Sempre pensando a mangiare, in Africa ti saresti voluto, ciao, ciao Marco, ciao Gianni. Ciao Fra, ben sentito, dai. C'è anche Bombolo, Claudio Sparviero e via dicendo. Avanti di nuovo. Buonasera Gianfranco, buonasera. Ehi Gianfra, sai com'è? Niente bacco, niente tabacco, niente venere. Almeno fammi annegare i dispiaceri nel cibo. Sì, ciao Antonio, buonasera. Ma così consumi troppo e poi ti ingrassi, quindi c'è un freddo che non te ne dico niente, proprio il vento di quello freddo, di quello che è pungente, ecco, pungente proprio. In compenso c'è un bel cielo con tante stelle. Riprendi Antonio? Vabbè, pure io poco fa sono uscito e c'era molto freddo, c'era. La verità, si sta meglio a casa, si sta molto, molto, molto meglio. E tu già non esci a portare il cane? Chi è che sta parlando da mezz'ora? Voi lo sentite questo? Io no, anche perché io lo squelcio. Io lo sento questo non riesco a capire chi sia. O ce l'ho talmente vicino, ce l'ho, non lo so. Ma c'entro, dimmi. Mi ascoltate? Sì, mi ascolto a voglia. Perché ho cambiato radio, volevo vedere se andava bene. Va bene. Ah, vedete, sta bene, ci mancherebbe. Ma già, ma tu lo senti questo ogni tanto? Io lo sento comunque. No, io non ho sentito nulla fino adesso. Ogni tanto mi... o è vicino a me che magari sta parlando in qualche altro canale, in qualche altra frequenza, o fuori frequenza, perché non è possibile, capo. Ogni tanto lo sento io questo. Cioè, come che sia un altro canale. Questa la modulazione ti piace, Anto? Questo qua è lo ZGM93. Lo senti già? Sì, è bella. E col Cobra, questo qui. L'ho messo sul Cobra, là. La cosa è a metà, l'amplificazione a metà. Buono, è buono. Non lo conosco, la verità, ti dico la verità. Non l'ho mai... cioè, ma cos'è un microfono? Sì, della 93 della ZG, non lo conosci, quello che c'ha il tasto giallo. Ah, ce l'ho avuto pure io, ce l'ho avuto, è in casa, chissà dove cavolo è. Ce l'ho avuto pure io quel microfono lì. È a casa lì a Latte Dolce, chissà dove cavolo è. Beh, io il tasto giallo non ce l'ho più perché l'ho verniciato, che non mi piaceva, non è il tasto del cursore, ce l'ho sempre neri. Li ho verniciati perché giallo non mi piaceva. Ah, a me indifferentemente. Però funziona bene quel microfono, ma tu l'originale l'hai lasciato? No, la capsula l'ho cambiata io. Ah, scappa, va. Già va bene, hai cambiato la cassa perché di solito non escono tanto bene. Pure quello che c'è a casa era modificato. Andava con una cannonata, chissà dove c'è finito. E adesso questo qua, l'apparecchio era un po' che non lo usavo, là. L'ho acceso perché è sempre lì fermo. Mi fa sbrumare a vedere così. Ma ascolti, adesso ti dico che io ho calcato 5-6 prova. Mamma mia! Allora, parate in due, aspetta una seconda. Ok, allora qua. Si sente solo il bippare, si sente tutto tra tra tra tra tra tra tra tra, tutto a strappi, bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 prova. Adesso vado a Tomiglio, poco fa si è uscito tutto poco. Questo è lo 7500S, modificato, con il bus protettore, va bene, sì? Sì, adesso si può presumere. Che se ne scendi tutta a trutti, controlla chi c'ha il radio a vedere. E vecchia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. Pippi già esce. Guarda, non vado la vicina a bocca, ma te, mi sembra strana. Ali, sto dicendo quello che sento. Il bip si sente bene, ma il resto... Uno, due, tre, quattro. come se la radio imbriaca. Cosa hai fatto male? Un poco di vino, magari si scenda. Essere che c'è fuori frequente. No, no, sono qua. Bella parola. Non so come ti sentono gli altri, io con questa apparecchio ti sento tutto. Che mi basta qua per dare un controllo all'Alice. E tengo tutto gatto strano, non capisco cosa ci abbia. No, non riesco a capire, veramente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po', va bene adesso, va meglio? Questo sembra di sì. Va meglio adesso, sì. Addio. Però qualche scarica della gente. Va bene, è il tempo che non uso questa panica, questa panica qua, me la pensa. Al minimo 6 anni che non lo uso. Magari anche il microfono, pensato, sì. NFM500S, figurati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, come il microfono. Questo va bene. Dai che non mi tratti, già non credo che ci vuoi. Magari c'è anche la batteria a mezzo scarica, a me. Senz'altro sì, senz'altro. Aspetta che attacco, guarda un po', 1, 2, 3. Non si fa di trudiente, pare. Quindi, vedi cosa c'è, però ho capito. Qualcosa c'ha, bisogna che lo controlli bene, perché c'è qualcosa che non vale. Ma le stazionarie a posto sono. Sì, a quelle sì, sono a posto. È tutto questione di apparato, che lo sai. Quando lo usi parecchi mesi, ti fa quel difetto. Io sono stato anni che non usavo l'apparecchio, l'acceso andava bene, e dipende dagli apparecchi. Ci sono apparecchi qua che se non li usi, microfoni, tutto quanto basta. Sono un donario, chi si sono imbriacati a birra, ma questa è domanda da voi, se sbintiete. Sicuro. Tu l'ho visto il filmato. Questo là è il filmato, qua è il capo, no? Oh yeah. Dove siete lì? Sotto i portici, qua vicino. In piazza Corona Mariani. Ah, sì, ho capito. Dove c'è la Lupin prima? Sto arrivando, sono lì. Questo non è Mariani, ma è Mariana. Mariana. Mi sono sbagliato. Perché ho detto Mariani? Dovevi raccontare, ho portato. Vabbè, dai. Volevi andare a truccarti la moto. Senti già questo. Come? Senti tu questo in banda laterale. Negativo. Ma cosa arrivi solo a me, Gisù? Sì, arriva solo a te. Quindi io non sento niente. Ma tu ti sei bene tutta la mondezza, Gisù Luca. No, è qualcuno che arriva. Cioè, qualcuno che non è mondezza. È qualcuno che arriva. Perché magari voi, ce l'ho vicino io, voi non lo sentite. Sarà lo splatter, no? Sono volato, prendo il sacco, la forzaria, non c'è problema, no? Ecco, non c'è il problema, è un vino di ghimento, perché io bainto. E io sto dicendo? Ah! Di Gabbo, stasera abbinata ad uscire Alice, va? Buoni. Ero spinto, Sado, Alice. Oh, Antonio. No, ancora ci devo andare a retta. Avanti Marco, come ascolti tu? è un po' barattolata l'ondulazione. Questo buono un rutto che vi faccio i capelli arcobaleno. Allora questa che capello io che ho fatto i capelli arcobaleno? Da parrucchiere, da quei filocchi ti accompagno, quelli che c'ho vicino a casa. Faccio quei capelli, metà neri e metà viola da una parte e metà viola dall'altra. Sì, tipo gay pride, capito? Appunto, bravo. Tu gli Marco mangiato, eh? Sì, però non sono soddisfatto. Sono ancora alla ricerca di qualcosa di buono, tipo la pubblicità dell'autista, dei Moncheri, cos'era? Io a casa c'ho la cioccolata, mi sa che da voi saluti la cioccolata con la panna. Oh. Io ce l'ho tolta, è il mio compleanno. Perché gli anni compie, Antoni? L'ho comprato il 9 novembre alle 6:30, guardate la messa. Quello ho fatto comprare più capo di domani, perché mi sono raccolto alle 6:30 quando stavo facendo un sacco di roba, da una parte all'altra, poi mi ha ricordato Giovanna, dice quella che hai comprato il supermercato, il capo, questo è Luigi. E avevo pigliato quattro lattine, mi sono comprato, bevuto quello e va a fanculo. Poi ieri, dato che c'era, siccome i soldi non l'avevo ancora, arrivato il reddito di cittadinanza, mi sono occupato la porta ieri la resa. Adesso me la mangio stanotte, con grazia di Dio. Ah, come si deve. Sento un segnale bassissimo. Anche io lo sento. Stai scendo male. E a fanculo, schiacciato l'FM. Perché volevo capire dov'era. Sento questo cavolo di segnale, ma pure a te sta arrivando. Tutto ma. Io sento un segnalino minuscolo, ma è nel quadremme. Tengo ghiccio che fa bisogno. Cioè, blasterando. O è in banda strana o fuori frequenza, non so. Ah, sei stato fuori frequenza, vabbè. Tranquillo, tranquillo. Oppure in banda bassotti. Non c'è io il canale di giù, se no avrei controllato. E dove vi è controllato? In banda bassotti. Banda bassotti. Già lo so cos'è la banda bassotti. Però io stavo giù, ma il canale giù non c'è io. È qualcuno che sta parlando e io lo percepisco, questo è fuori frequenza o qualche cosa del genere. Ah, mi gli rende le balle, ma fine che attacco un lineare. Gli altri canali sembrano vuoti, ho fatto una spazzolata veloce, magari propagazione bassa bassami. Può essere, a volte mi è arrivato anche 9 questo segnale qua. Cioè luci, drugando strano. Tanto lo so qui fa la bernacchia, manco di catena. Antone, lascia bianco un attimo, cavolo. Chi è? Avanti. Ma voi lo intendo, avanti, chi è? Il Bertongo, e tu quanti c'hai? Boh, non l'ho riconosciuto, no. Antone, c'è una modulazione brutta. Passata lineare, 1, 3, 4. È tipo barattolosa un po' a me, è di cattiva qualità. Ecco, va bene, che mi chiama Antonio, avanti, buonasera. Avanti, che ti sento, che ti sento le malinconie, dimmi. Bella, adesso te lo dico io. Pensalo tu, buonasera, mi sentito, avanti, chi sei? Sei boia, sì, allora siamo a posto. Amici comunque. Quanti voglia! E se arriva già di segnale a te, amico. Dunque, 5, 6, 7, 7 e mezza 8. Se ti arriva così ti arriva. Sì, una cosa tipo 7 e mezzo 8 intorno a quello. Ma Gianni ci sei? E ci sono, ma se vedo, non lo so, oggi non mi sento bene. Cosa fai già? Ma a forte ti arriva l'amico che ci stava chiamando. Io. Cosa c'ho? Sono stanchetta, strano mi sento, non lo so, molto stanco. Perché tutti i giorni sono così già. Non ti dico. Vada, prendimi un ginseng adesso. Allora ti tira un po' più su. Mi faccio una bella cioccolata così mi tira su davvero. Leggi il sen che mi prendo, a me non mi si addita l'uccello adesso, fino alle 11 e mezzo, dopodiché prendo le pastiglie che mi hanno dato come telegrafori, che si vola, e se state sveglio e poi appena la mattina. E quello del rimedio c'è, Viagra, e non se ne parla più. Come Viagra quello è me? C'è ginseng e Coca-Cola. Non so come ti fa il cuore. Gianni, mandami la foto della cioccolata con panna. La panna mi manca, Marco. Sono andato a controllare che se non ce l'ho. Stai montando lì. Cosa puoi far montare? No, non ce l'ho, l'ho usato a fare i giochetti e l'ho finita. Ma è sotto casa perché la vendo la panna montata, non ti preoccupare, quella è la palma l'acqua. E ho carema dei giochetti. Uia. Sai cosa che Antonio? Ha fatto pure dei giochetti, a parte gli scherzi, l'ho finita e... E devo comprarla. No, che cioccolata solo mi piace da sola, mi piace come un po' di panna. Dai, mettiti un po' di cioccolato in porta, poi ci metti la panna in mezzo e poi la fragola al centro. Oh yeah. Oggi giornata delirio. Manco passiamo un tempo, Marco. Scazziamo e via, in realtà è sempre sì. Ma corridimo, gara. Bisogna adeguarsi alle persone che ci sono. Aspetta che ti mando la foto del coso, Marco. Della torta. Poi la farmo sopra, non ti preoccupare. Ma ti spaventa la situazione di rumore. Andiamo bene. Chissà cosa mi manda. Metto la porta al centro, sopra, hai capito? La mangio piano piano, hai capito? Ti arriva al centro. Gianfranco, ci sei? Sono impegnato? Scandalizzato, sì, di la verità. Sono all'occhio, mi sa. Ma Claudio che fila fa? Ah, fa col fanno, non ti preoccupare. Claudio, ci sei? E me la sei prendere roba, deve essere. Perché è scandalizzato anche a lui. Cos'è che hai detto? La ricotta di Mongani, cazzi! Traducete in italiano. Cosa vuol dire scalzo, Marco? Ma tutta la frase cosa vuol dire? Io non capisco cosa sarebbe. Ma tu l'hai capito all'inizio, non ho capito cosa avete. Ha detto la ricotta, non so cosa. La ricotta deve andare scalzo, buh. Cosa non c'è nulla da capire, Marco, è facile sassarese, non lo capisci, tu dove sei di Sassari? No, io sono originario di Genova. Ecco perché sei così secco. Io anzi già, io quando posso regalare roba la regalo, anche comprando le mani bucate, no? Non sembro proprio genovese. Ah, sto scherzando, cioè lo so che è così. Anzi, pure troppo se le ho bucate le mani. Però vedi, io certe volte, no, non certe volte, sempre, mi sbilancio troppo verso un prodotto, no? E poi ho delle lacune, cioè io non ho un rosmetro decente, già me ne voce di tanti baracchini, non ho un rosmetro decente, quello piccolo si sta tutto spappolando. A finire che dovrò fare l'acquisto, però se lo faccio buono, vorrei qualcosa tipo Daiwa, minimo. Ma io guarda, c'ho il ZG e vanno benissimo, guarda. Io ho l'HP1000 che fa anche l'accordatore, anche se non mi serve, però c'è anche l'accordatore. E poi c'è il 102, quello chiuso in macchina per misurare stazionarie delle antenne che prendo, adesso ne devo comprare un'altra. Eia. Il TM1000, ma il TM999, ne ho avuti tre nell'arco della storia, tutti e tre bruciati, sezione accordante bruciata, usando potenze normali, proprio quel modello è molto economico. Quello sarebbe la versione veicolare del TM1000, là. È più piatto, più piccolo, comodo, in macchina è comodissimo, però se si brucia la sezione accordante è inutile. Ah, io ho detto che ho l'HP1000 a casa e il 102 in macchina, ZG 102. Carie, oggi c'è il delirio sul canale. Delirio, c'è quello che fa lo spettacolo. No, può darsi. Sì, oggi abbiamo sclerato più o meno un po' tutti. Sai, con questa situazione stiamo cominciando a accumulare, secondo me, un po' troppa paranoia con questa situazione qua. Di fare discorsi seri non abbiamo voglia, quindi oggi il delirio di tutto e di più è stato detto. Già. Il mio segnale oscilla, guardate il segnale. Negativo, 9 più 10, bello piantato. Cioè, tutti mi stai impazzendo. Perché, guarda un po' me, cioè, non è il vento lui, probabilmente è lo smitter che sta un po' andando e venendo. È stato di oscillazione, penso che sia un segnale che non è 9.30 a pieno, magari 9.25 e oscilla. Marco, 9 più 20 sei quasi. Aspetta, come lo interpreti 9 più 20? Dove arriva? Guarda il CAL sopra, dimmi se sono prima della C, sopra la C, tra la C e la A o dove? Tra la C e la A. Da dove sei tu? Allora, tra la C e la A dovrebbe essere circa 9 più 15, almeno per come l'ho interpretato io un po'. Mi hanno fatto la corrispondenza col K, però secondo me si è starato pure. Dunque, buono, dai. Tu sei sulla C esattamente, proprio in asse con la C. E tu sei in mezzo, tra la C e la A, però non sei proprio in mezzo, poco, sei più vicino alla A che alla C, dai. Purtroppo questi Smitter, te l'ho detto, il K, mi è dispiaciuto del K, solo lo Smitter, darlo solo per lo Smitter, e buh. Via, avanti Antu. Ma dove sei, a casa di Marina? Il 3009 mi sta dando le bici, mi segna tutti i 9.30, tutti i segnali altri me ne segna 9.30. È registrato, il 3009 vorrà regolato già, avanti Black. Avanti Black. Vuole entrare, poi sono, mi sento. Avanti il break. No, niente, breccano ma non... oppure c'hanno il volume a zero, Sicuramente. Vabbè, riprendete, arrivo subito. Paluma, c'è da Marina, sì. Sì, sulla C tu mi arrivi, Antu. Sabba, quanto Marco? Vai. 2-3, prova, sono liscio, Sono, ho messo la nuova antenna, ho messo. Sì, Marco, cioè non lo passi, Mi sembra popolate, però non passa l'uno nell'altro. E più o meno sì, quanto è Marco. Marco è poco, ma proprio, guarda, hai zaredo come si dice a Sassari. Poco più di te, ma siete lì con te due, comunque. E io come sono? Sono piccolino, sono con l'omologa. Tu sei tra la A e la L del CAL, in mezzo. Praticamente Gianni a 100 metri. Gianni, cazzo, qua è forte, la mano è più forte, ma arriva di tutti è Marchisio qua. Marchisio mi arriva.